Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Più precipitazioni alle alte latitudini, meno precipitazioni sulle zone subtropicali e aride e soprattutto piogge più concentrate con aumento di frequenza dei fenomeni atmosferici violenti come le famose bombe d'acqua che in poche ore possono scaricare su un territorio tanta acqua quanta in genere ne riceve in un anno. Sono alcuni degli effetti del cambiamento climatico, una macchina che ormai si è messa in moto e che ha già iniziato a dispiegare i suoi effetti destabilizzanti un po' dappertutto. Da qui il tema della resilienza delle città e dell'adattamento al cambiamento climatico, che passa anche, anzi prima di tutto, per l'adattamento proprio dei sistemi di gestione idrica, i quali dovranno affrontare anche nell'immediato futuro situazioni per cui nemmeno erano nati nuovi, diciamo così, equilibri idrogeologici. Ne parliamo con Alessandro Russo, che è presidente di CAP, che è un utility che gestisce il servizio idrico tra le province di Milano, Como e Varese, ed è anche membro del CDA dell'Associazione Europea dei Public Water Operators. Buonasera Russo. Buonasera a lei, buonasera agli ascoltatori. Allora, voi avete anche un vostro progetto aziendale che si chiama CAP21, diciamo di resilienza appunto, in riferimento al COP21 di Parigi, dove si parlerà proprio anche di questi temi. Senza un primo problema di questi fenomeni estremi è proprio la gestione delle acque di superficie, evitare che si creino allagamenti. Beh, le acque meteoriche non dovrebbero finire nelle fogne, invece come tutti sappiamo ci finiscono e ovviamente contribuiscono a rendere più complicato il lavoro che noi facciamo, cioè depurare le acque. Io lancio, ogni tanto mi capita di dire che noi, la nostra innovazione è tornare al Medioevo, cioè noi dobbiamo costruire dei sistemi di gestione delle acque che permettono alle acque di defluire in luoghi ben chiari, per esempio attraverso i reticoli idrici minori, quindi quei piccoli canali che c'erano nelle nostre città, soprattutto quelle più piccole, nell'area metropolitana di Milano in questo caso, e che non sono più utilizzate, ma che potrebbero tornare a essere utilizzate. Si parla delle marcite, di quei luoghi dove le acque vengono disperse. In Europa ci sono già esperienze in questo senso, noi in Italia siamo molto indietro da questo punto di vista, ma stiamo cercando di correre per portarci ai livelli migliori. Cioè sono delle aree, diciamo, ad allagamento controllato dove l'acqua in eccesso si ferma e pian piano penetra nel terreno? Assolutamente, giusto, no? Sì. Assolutamente sì, senza per forza andare a finire negli impianti di depurazione. E tra l'altro va anche ad alimentare le falde più correttamente. Le falde, e quindi in questo senso sicuramente pone un tema rispetto alla qualità di quest'acqua e al rapporto poi con l'acqua potabile che noi preleviamo. Dunque, tra gli effetti che il rapporto sul climate change segnala, è un peggioramento a causa della concentrazione di queste piogge, più intense e quindi anche più erosive, che portano, dilavano materiali e così via, è un peggioramento delle acque di superficie proprio, che trasportano più inquinanti. Qui ci sono problemi, per esempio, per il consumatore di acqua potabile? Ma innanzitutto direi che noi, nel caso diciamo dell'area metropolitana di Milano in senso lato e gran parte della Lombardia, no, perché noi utilizziamo l'acqua che peschiamo dai pozzi, quindi dalle falde profonde. Sicuramente questo tema si pone per quelle realtà dove utilizzano l'acqua di fiume o di lago per creare acqua potabile. Il tema comunque è quello di mettere a disposizione i migliori strumenti tecnologici per fare gli interventi di potabilizzazione. No, questo per dire che però il carico, diciamo, di depurazione in alcune situazioni potrebbe aumentare, perché peggiora proprio intrinsecamente, certo, la qualità dell'acqua. Ecco, invece le falde sono al riparo da questi cambiamenti. Le falde sono al riparo da questi cambiamenti. Quello che diciamo stiamo monitorando, osservando rispetto alle falde, è legato a alcune sostanze inquinanti o anche sostanze presenti in natura che fluttuano nelle falde profonde, che ovviamente noi cerchiamo di monitorare al meglio con gli strumenti che abbiamo a disposizione, ma anche con altri di carattere sempre più innovativo, per cui osserviamo i movimenti per esempio del freon, piuttosto che di alcune sostanze, dei microinquinanti che arrivano dal mondo agricolo. Che però sono inquinanti di tanti anni fa. Sono dei percolati, per un termine tecnico, che arrivano da 10, 15 o 20 anni di storia della produttività del nostro paese, quindi insomma parliamo degli anni 90. Ecco, quindi diciamo non ci sono ricadute dirette, se ci fossero ricadute se ne parlerebbe tra un bel po' di tempo. In realtà spesso poi noi non conosciamo così bene appunto queste falde, come si riforniscono, i loro tempi di rifornimento. Ogni tanto si sente parlare di acqua fossile, no? Perché si sa che ci sono alcune falde addirittura antichissime, con centinaia di migliaia o milioni di anni. Sì. questo è un tema nuovo che stiamo affrontando, cioè l'idrogeologia applicata alla conoscenza delle falde, cioè andare proprio a studiare, noi lo stiamo facendo per esempio con l'Università di Waterloo, andare a studiare le acque che sono presenti nel nostro sottosuolo per capire da quali epoche sono arrivati, quali sono i fattori che le possono compromettere la qualità e anche capire in che maniera noi le stiamo usurando e quindi qual è il grado di riciclabilità, diciamo così, delle acque di falda. Va bene, grazie Alessandro, insomma c'è un bel po' da fare. Grazie Alessandro Russo. Va bene, grazie a lei, salve, molto gentile. È tutto, a lunedì.